Madonna, per un pompino quanto casino. Ma in questo paese non si può più neanche scopare, figurati tu, ma è una cosa. Un paese va a puttane e noi non possiamo scopare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciati numero uno, perché tutte le cose che dice di sesso e di compagnia bella, io che sono nato nel 41 ne conosco un po' più di lui di cose. Quando hanno chiuso i casini già lavoravo e a 17 anni me l'hanno data gratis perché facevo bene i cappuccini. Che serata, Parenzo, che serata! Buonasera, buonasera, no, buonasera no, a lei no, a tutti no, i radioascoltatori. No, capra, impara, impara. Pace e bene, pace e bene. Impara, non si dice buonasera in questa trasmissione, è vietato. Buonasera, saluti. Al un'altra massimo cosa terribile, che in genere viene detta in questi quando si è benvenuto a, no, quando si presenta l'ospite. Sì, oh, sì. Benvenuto, sei tutti talk show. Mi scappa, ah, benvenuto all'onorevole, benvenuto al senatore. Allora, tutta Napoli contro la zanzara. Beh, amici miei napoletani, ma noi non c'entriamo nulla, nulla. Io faccio domande, intervisto persone. Se il signor Leopoldo Mastelloni, attore, Mastelloni. Esatto, Leopoldo Mastelloni, attore bravissimo, ha detto delle cose sulla città di Napoli, delle cose sulla città di Napoli, dove è nato. Ormai non vive più, come ci ha detto, preferisce Roma. La colpa non è nostra. Invece insulti, quel porco maledetto, testa di cazzo, stronzo di Cruciani. No. Sì, ma guarda, sul web c'è di tutto, c'è qualsiasi cosa. Oltre naturalmente gli insulti nei confronti di Mastelloni. Perché qui in Italia, in particolare quando si parla di alcuni argomenti, Napoli, eccetera, eccetera, non si può dire nulla, altrimenti vieni tacciato come razzista, antinapoletano e via dicendo. Vabbè, cosa ha detto il signor Mastelloni? Da noi pungolato, come facciamo di solito, ma è normale. Altrimenti cosa ci stiamo a fare qui? Non è che siamo a Porta a Porta, non è che siamo a Ballarò. Porta a Porta. Scusami, no, ma con tutto il rispetto, no? È un'altra roba, è un'altra roba. Mastelloni contro Napoli. Poi oggi ha chiesto scusa, ha detto sì, sono stato superficiale, eccetera, eccetera. Comunque, Mastelloni contro Napoli. Io soprattutto mi sento romano, perché la mia formazione di vita da 18 anni ho vissuto a Roma, per cui ci vado però più, non so come dirti, per il teatro sì, ci vado abbastanza. Vivere a Napoli non è che è impossibile, non mi riguarda più, non so come dirti. Tutta la città è malfamata. Napoli è pericolosa perché non ci sono le zone malfamate. Ci sono infiltrazioni di ogni genere, perché è malfamata tutta la città se non ti stai attento. Dice che serve l'esercito per corso di guerra a Napoli. Napoli è una città, da un punto di vista sociale, è un percorso di guerra molto più che in altre città, perché c'è una strapotenza sociale a Napoli che avrebbe bisogno dell'esercito per essere inquadrata. A Napoli non si osserva nessun tipo di... Poi addirittura dice che Salvini è perfetto, lo voterei, per cui figurati, no? Anche questa roba qui ha suscitato un vespaio, un casino. Mastelloni, che è stato molto sincero, e poi non si capisce perché dice vabbè, sono stato superficiale. Ma uno, la prima cosa che dice è quella buona e quella giusta, dai, su. Comunque, sentiamo su Salvini, va. Quando fa delle osservazioni sono perfette, socialmente parlando e anche legislativamente parlando, mi pare la persona più a parlare, la persona cioè, più. Cioè, lo voteresti in questo momento? Ah, sì, senz'altro. Oggi la marcia indietro, che non è la marcia indietro di Renzi, Parezza, stiamo parlando comunque di Leopoldo Mastelloni, evidente, sì. Cioè, personaggio l'apertura della trasmissione della cultura italiana. Vabbè, ho capito, ma amico mio, ma non c'è l'apertura di punta Radio 24, Mastelloni, ma che c'entra? Mastelloni, signor Mastelloni, signor Mastelloni, dai. Un'analisi superficialissima di certe evidenze, sì, che basta per qualsiasi senta, poi non vuole confessare di essere omosessuale. A me questa cosa mi fa impazzire. È vero che c'è un'idea nobile, cioè non sono costretto a dire che sono frocio. Sì, però... questo è un po' come il signor Isotta, anche, no? Anche ma lui no, sempre ma Isotta, dice: come ma dice insomma, che io si è fatto sono fare per l'amore. Quello che si è fatto fare. Sì, le mie... però... dai, su, questo lo dice. Sì. Splendido duello, beh, meraviglioso oggi. Cacciari, mi dà sempre grandi emozioni Cacciari a me. Non il professore Cacciari versus... contro Andrea Romano. Andrea Romano, ma che è passato, che è del PD peraltro, che adesso, è passato col PD, per cui per lui uno, sì, che è passato col PD. Ma non è per questo, ci deve essere qualche attrito che non conosciamo. Cacciari è proprio un esempio di quello che tanto peggio tanto meglio, per carità, facciamo anche ho la detto tanto peggio, detto tanto, meglio. Tanto meglio, no, ma io capisco, ma sogni, ma tu, proprio tu, hai le vaneggi, no. Se dici a Cacciari che è tanto peggio tanto meglio, quello diventa pazzo, cioè quello diventa, siccome Cacciari è facile alla critica, Andrea Romano l'ha un po' detto, ma tu sei per il tanto peggio tanto meglio, non l'avesse mai detto. Mi nervosisci moltissimo, forse, tu. Non lo so, mi dispiace. Sempre arrivato lì al momento e do applauso al padrone di turno. Ha la tendenza a dire le battute, le parolacce come le elementari, pirla, vaffanculo, ma come mai? No, mica dice le parolacce. Sì, ha detto prima vaffanculo, adesso no. Pirla, ma come mai? Ma non ti hanno insegnato l'educazione? Oggi Mastelloni ha chiesto scusa a una radio locale, a una radio locale napoletana. Ma ha chiesto scusa per cosa, professore? No? Ha chiesto scusa per le cose che ha detto di noi, di essere stato frainteso. Radio 91, eh? Secondo la Zanicchi, Berlusconi è ancora un bell'uomo, senti. È ancora un bel uomo, si presenta bene, ha ancora delle idee, è ancora giovane intellettualmente, perché sì, gli anni ce li ha, ma insomma ragazzi, non uccidiamo le persone anziane. Benigni e l'adulterio, questo è per te Parenzo, eh? Stupendo, stupendo. Benigni stupendo. E l'adulterio, meraviglioso, molto meraviglioso. Bello, molto bello. Insomma, le cose sono cambiate. La legge, per esempio, ha depenalizzato l'adulterio, non è più un reato. Nessuno più pensa che sia una cosa grave, anzi, vi dirò di più. Pensate che in qualche caso l'adulterio è proprio consigliato come terapia da dei dottori per salvare un matrimonio, un rapporto di coppia in crisi. Pensate, consigliano l'adulterio, si annoiano, sono un po' depressi, indifferenti, e allora gli consigliano insomma l'adulterio. È diventata una medicina, un medicinale. L'abbiamo visto tante volte, no? Oggi per fare un matrimonio felice in genere ci vogliono più di due persone, no? Ti voglio abbracciare fortissimo, caro Benigni, ti voglio abbracciare fortissimo. La voce della verità. Abbiamo già un ospite, Parenzo, però... una frase che è stata notata da molti ascoltatori della Zanzara ieri, pronunciata da un parlamentare europeo belga che si chiama Tarabella, il quale Sir ha detto Tarabella, come contro no? Buonanno ha detto una cosa, contro Buonanno ha detto una cosa, ha detto che chi lo vota, siccome ha detto che è un fannullone, che è un cazzaro, che è un buffone, eccetera eccetera, chi lo vota è uno stupido, se la gente lo elegge è stupida. Senti. Devi difendere la gente che ti elegge e lavorare, impegnarti nelle commissioni, nell'aula, nelle riunioni di lavoro e non fare lo stupido e unicamente lo stupido come lo fa lui. Ma allora la gente deve saperlo, e se li rieleggono e la gente è stupida, se lui fa solo questo e è rieletto, allora dobbiamo chiedersi come ragiona, come pensa la gente che va a votare. E In collegamento da Genova, il professor Paolo Becchi. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera, carissimo, e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Senti, professore, ma anche per te il matrimonio ha bisogno dell'adulterio per ravvivarsi o no? Ma insomma, la fedeltà è importante, ma la scappatella qualche volta ci può anche stare. Ecco, ma può ravvivare anche il matrimonio. Io poi ho conosciuto tua moglie, tua moglie secondo me te lo taglia, però questa è la mia idea. ma certo, però vedi, ci sono diverse forme di tradimento. C'è il tradimento nella vita affettiva, c'è il tradimento nella vita religiosa, c'è il tradimento nella vita politica. Insomma, viviamo in una società che è fondata sui tradimenti, a partire da Eva, insomma. E dunque non c'è niente di male se avviene uno... La moglie dovrebbe... No, dipende dalle circostanze, dipende dalle situazioni, ecco. Non credo che dobbiamo parlare di altri tradimenti. Ecco, a proposito di tradimenti, quello del signor Currò, l'ultimo fuoriuscito, come lo definiresti tu? Ma guarda, mi è venuto in mente così, riflettendo su questa cosa, una riflessione di questo genere, che il tradito spesso è un ingenuo. Il traditore quasi sempre è un infame. Direi che in questo caso, tenendo presente quello che ci è riportato dalla cronaca, cioè il fatto che ci siano state addirittura telefonate, eccetera, io vedo da parte del Movimento 5 Stelle, di questi ragazzi che erano lì a bocca aperta, tanta ingenuità, e dall'altra parte veramente un comportamento che non saprei se non definire infame. Cioè, secondo te Currò è un infame? Che il suo comportamento... essere così qualificato. Mi pare un linguaggio da anni 70. Ma questo perché? 70. Perché se sei eletto con Grillo, con Grillo hai da restare, anche se non sei più d'accordo, cioè almeno dovrebbe avere la decenza. Uno può dare tranquillamente le dimissioni, fare un passo indietro e dire: quello che non capisco di questi 23 che se ne sono andati dal movimento, non ce n'è solo uno che per coerenza abbia detto: io non condivido più questa linea politica, non la condivido dall'inizio, mi dimetto dal ruolo di parlamentare. Questo è vero. Chiedo scusa, professore. Non è che ci hanno obbligati a farlo perché noi non abbiamo il mandato imperativo, però un gesto di coerenza me lo sarei aspettato. Dunque, diciamo che da questo punto di vista funziona la famosa poltrona, per dire una cosa così leggera, no? Direi proprio di sì. Su questo non ci sono dubbi. Il Becchi, il compagno Becchi, cioè è un professore della filosofia del diritto, ma era compagno, ma c'è una cosa che si chiama il senza vincolo di mandato, per cui hai dato dell'infame, nell'ordine infame a chi se ne va, ma il primo infame sarà chi ha tradito la natura di quel movimento, no? Se vogliamo metterci a discutere, quella è una valutazione politica che è quella che hanno fatto loro. Io non sono del movimento, se sei stato eletto con Grillo dice A, io dico B. Vabbè, quello Becchi è un altro discorso. Io so già come posizionarmi. Allora non c'è dialettica. Non può esserci. Ma non è vero, adesso stai esagerando. Sto scherzando, torniamo subito. Fermi, 18:47, con calma, con estrema calma. Non mi fa arrabbiare. Ma no, ma tu devi arrabbiarti quando senti che ti si attizza qualcosa, altrimenti mi si ammoscia tutto, no? Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Proprio perché anch'io ho commesso degli errori tragici, posso dire in coscienza che è meglio evitare il matrimonio che evitare un amante. Le grandi massime di Vittorio Feltri, raccolte come aforismi. Allora, c'è una notizia, Parenzo, guarda che è grave quello che è uscito da parte dell'Istituto di Sessuologia Clinica a Roma, Cioè, è veramente grave questa non cosa qua. Il visto. Titolo di giornali, anche di siti molto, come dire, molto snob, molto reputati dal punto di vista giornalistico, è questo: sono finiti gli stalloni italiani. Questo non è un problema, ci sono più gli stalloni di una volta. Questi sono problemi. Cala il desiderio e aumentano le visite dall'andrologo. Io non dico niente, professor Becchi, per carità. Sai, io una certa età ormai ce l'ho, 60 anni, quindi per cui lei, l'ho già fatta. Esatto, non è coinvolto in questa discussione sugli stalloni, sugli stalloni o no. No. Cioè, ormai ha, come dire, annodato, ha archiviato tutto. Vabbè, ma ancora ce l'ha lei qualche frizione, qualche momento di entusiasmo? No. Ce l'ha. Beh, certo che ce li ho gli entusiasmi, ci mancherebbe altro. E che ne so, qualche, ogni tanto qualche pizzicatina, qualche. Nah. Qualche... No. Ma perché dici di no, Parenzo? Nella che rete, sai tu, lo fa nella rete, lo fa, dai, con Grillo. Ma io lo con... faccio, è tutto virtuale, capisci? Appunto, vedi? È tutto virtuale. Ma nella questo rete. Sì, uno dei problemi però è questo. Tutto ciò che è virtuale reale, tutto ciò che è reale virtuale. Questa è buona, questa è molto buona. Allora, professor Becchi, però io dico una cosa: ha ragione lei, cioè, ha ragione il professore, caro Parenzo. Perché quando uno viene eletto con Grillo, viene eletto con un mandato preciso, ma cioè quello di fare la battaglia contro il sistema, Grillo, i partiti. PD. Ma no, PD, PDL, ma è una questione Forza di coerenza, Italia. Ti devi dimettere. Secondo me hai ragione tu, è una questione soltanto di coerenza. Vi racconto un episodio, uno dei pochi che ha dato le dimissioni dal Parlamento, lo sapete chi è stato? È stato Adriano Olivetti. Che vabbè, aveva che ha fundato... fatto? No, Adriano Olivetti era stato eletto con il suo movimento che si chiamava Movimento di Comunità, quando ha visto che le cose non andavano si è dimesso dal Parlamento. Senti, ma invece Napolitano? Ne vogliamo parlare di Napolitano? Che faresti? Lì abbiamo parlato di tradimenti, qui si potrebbe parlare, passatemi la battuta, di alto tradimento o di alto gradimento. Beh, nel senso che insomma, il nostro capo dello Stato, che dovrebbe essere diciamo l'arbitro, no? Super partes. Vabbè, fa quelle dichiarazioni che ha fatto a favore del governo Renzi, la stabilità, fa? Eccetera. Gioca all'attacco e pretende di segnarle tutte, nel senso che insomma basta che blinda il governo, non ci potranno essere elezioni, attacca le opposizioni perché sono avversive e se la prende addirittura al sindacato. Io non so che cosa dobbiamo ancora aspettarci di questi giochi pirotecnici. Ma prima scusami, una bomba finale, un'esplosione totale, perché più di così non so ancora che cosa dobbiamo sopportare. Insomma, qui ha attaccato tutti, tranne il governo, che deve continuare comunque. Scusa un attimo, Paolo, ma dopo il mandato, che pare che si dimetta a metà gennaio, no? Sì. Presidente della Repubblica, ma fosse per te Carabinieri? Per me Carabinieri, perché? Cioè, fosse per te Carabinieri a prenderlo, a prelevarlo da casa e arrestarlo? Ma no, sto dicendo questo perché una volta che hai detto la messa in stato d'accusa valeva quando lui era ancora in carica, nel momento in cui non è più in carica ritorna un normale cittadino e basta. No, il problema è il ma problema che fai? È che fai se provi? Il borderline sta superando tutti i limiti, cioè ormai sarà che ormai sta avvicinandosi alla scadenza da lui stesso fissata, però ne spara ogni giorno una, speriamo che finisca qui. Il bello è che se tu leggi i giornali tutti li danno d'accordo, sì, quello è incredibile. È un discorso politico di alto livello, un capo dello Stato che invece di fare l'arbitro si è messo a giocare e all'anima con la bella età del 90 anni gioca anche bene. Ma tu chi ci vedi dire, adesso? La persona ideale per te, che sei vicino al movimento, eccetera, Grillo, con alti e bassi, chi vedresti per la persona ideale al Colle, secondo il professor Paolo Becchi? Chi è? Ma Paolo Rossi. Paolo Rossi? Paolo Rossi chi è, il calciatore? Ma o dicendo, un cittadino qualunque che abbia fatto bene nel suo campo, cioè voglio dire il Presidente della Repubblica ha un ruolo esclusivamente nella nostra Costituzione. Ma ho capito, ma è chiaro, ma che non vorresti un politico, però Paolo è banale una cosa del genere, ma è chiaro che ma c'è un accordo politico, viene eletto addirittura di Muti, quindi tanto banale non lo era. No, che ti piacerebbe Muti? No, non sto dicendo questo, sto dicendo che l'idea di non metterci un politico forse non sarebbe male, tutto lì. Ma se, se Prodi per te che fai? Se, se c'è Prodi presidente della Repubblica, ti prego. Io dovrei, probabilmente devo andare in esilio. Cioè scappi dall'Italia. Scappi dall'Italia. Per forza, cosa posso fare? Cioè, è chiaro che per me. Ma no, ma ti cacciano dall'università. Con il Movimento 5 Stelle, per me è chiuso. Cioè, allora sono io che li mando a fare in culo definitivamente. Eccolo lì. No, perché anche no, perché c'è anche questa possibilità. Qualcuno nel Movimento 5 Stelle potrebbe proporre Prodi, attenzione. Se lo propongono, d'accordo. Ecco, poi. Io sono stato mandato diverse volte, beh, lo farò io a mia volta, perché Prodi è l'artefice di questa costruzione europea che ci ha distrutto, ha contribuito a distruggerci, lui e Ciampi. Cosa lo vogliamo adesso Presidente della Repubblica? Certo, dopo quello che ha fatto Ciampi per l'Italia, distruggendo il nostro paese nel 92, poi certamente, vai a vedere quanti miliardi abbiamo sprecato prima per la svalutazione, per evitare la svalutazione della lira nel 92, e poi siamo stati costretti comunque a svalutare 60 miliardi di vecchie lire. Cioè, quella Prodi lo consideri un mezzo criminale, tu? Chiamalo come vuoi, comunque sicuramente non ha fatto una bella... Vabbè, ma come lo consideri? Come lo consideri? Ha fatto in coscienza devo dire che ha fatto un errore micidiale. Vabbè, d'accordo. Addirittura è diventato, dopo questi errori, è diventato addirittura Presidente della Repubblica, quindi non mi sorprenderei che la stessa cosa succedesse a Prodi. A presto, ciao Paolo, ciao. Stavo ascoltando Radio Capital adesso, Zuccone è molto più divertente. Piccolissima tirata di orecchie, quello che mi dà molto fastidio è che quando espone i suoi concetti non si relaziona con gli ospiti, è molto troppo sboccato. Molti mi hanno detto, Cruciani, hai visto che i magistrati hanno tolto le ipotesi di accusa di terrorismo per i notav, tu che dicevi, io non ho mai detto che sono dei terroristi, secondo me c'erano tutti gli estremi, ma poi ognuno valuta per quello che, certo, per quello che legge nelle carte, certo, poi gli imprenditori minacciati di morte, le minacce a caselle e altre cose ancora, se questo non è terrorismo, se vi piace così, allora, a voi piace un mondo così? A voi piace un mondo dove questi qua possono minacciare di morte gli imprenditori, in cui possono minacciare di morte eccetera e poi non essere accusati bloccare di terrorismo, bloccare un cantiere manu militari, se vi piace così mandateli fuori dopo 10 giorni, 15 giorni, un annetto eccetera, se vi piace così. Vi piace un mondo così? No, a me no. No, neanche a me questo. In questo caso neanche a te, No, assolutamente. Io vorrei capire dal popolo della radio, dal popolo della zanzara che, che è collegato, se questa maledetta espulsione dell'espulsione, cioè la dipartita del signor Currò dal 5 Stelle, è una roba di alto tradimento, di infamia, come ha detto prima il professor Becchi, oppure è una liberazione dal gioco di Grillo. Se ha fatto bene, perché ormai il movimento è finito, perché ormai Grillo è partito per la tangente, eccetera, eccetera. Il nostro amico Buonanno, ancora show al Parlamento Europeo, caro Mamma Parenzo, mia, ancora show al Parlamento Europeo. Questa meno male volta, che ci sono le vacanze di Natale, va? Così si riposa anche il circo. Esalta, devo dire che ha ragione, esalta la tortura della CIA, le torture della CIA a Guantanamo. Le torture della CIA a Guantanamo, che cosa è una cosa bestiale. Senti, se no, ma pure Obama le ha condannate, scusa. Ottimo. Ma pure Obama le ha condannate. Ottimo. Obama ha fatto una commissione d'inchiesta. Anche Dio, Buonanno critica Obama. Buonanno, d'altra parte, se Grillo va contro il Papa dicendo che non ha ricevuto il Dalai Lama, vuoi che Buonanno non possa andare contro Obama? Scusami. Il senso della misura, però. Grazie signor Presidente. Beh, io al contrario di tutti i miei colleghi dico che la CIA ha fatto bene a fare quello che ha fatto, perché noi dobbiamo ricordarci dell'11 settembre 2001. Qua c'è troppa ipocrisia. Le torture ci devono essere per andare a fare in modo che ci sia la tranquillità anche per l'Europa, perché se quelli sono terroristi, quelli sono bestie, chi commette reati così gravi sono bestie, sono terroristi da combattere. All the guys know your name. You got the engine running, yeah. deve rimanere aperta. Perché qua si deve combattere, ma quelli che decapitano le persone, se decapitassero qualche vostro figlio, qualche vostro parente, parlereste ancora così? Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Dopo 50 anni comincia il disgelo tra Stati Uniti e Cuba verso l'apertura delle ambasciate, via le restrizioni su viaggi e denaro e scambio di spie. L'annuncio simultaneo di Raul Castro e Obama, entrambi ringraziano Papa Francesco, il presidente americano, chiederò al congresso di rimuovere l'embargo. Pakistan, dopo il terribile attentato, il governo ripristina la pena di morte e annuncia la risposta militare. I talebani, attaccheremo altre scuole. Renzi ai senatori Dem, corsa contro il tempo per le riforme, subito quella del Senato e la legge elettorale, poi la partita per il Quirinale. Forza Italia contraria alla roadmap del Premier, prima l'elezione del Presidente, poi l'Italicum. Il PD avverte, se fanno melina, avanti da soli. Gelo con l'India sul caso Marò, l'Italia richiama l'ambasciatore. Gentiloni pronti a qualsiasi passo, Pinotti impegno a tutelare la salute di La Torre. Confindustria, Italia fuori dalla recessione dal 2015, ma la disoccupazione salirà. La corruzione frena la ripresa, persi 300 miliardi. Indietro, di Mastelloni, Leopoldo Mastelloni, su Napoli. Però restano le sue frasi, no? Napoli è tutta malfamata, io ormai vivo a Roma, non me ne frega più niente. Napoli è pericolosa perché non ci sono le zone malfamate, ci sono infiltrazioni di ogni genere, perché è malfamata tutta la città se non ti stai attento. Davide Torino. Vai Davide. Davide. Pronto, sì. Dimmi, dai. Io volevo dire che mi sono un po' frantumato le gonadi di vivere, al solito, un po' l'argomento da leghista, lo so. Cioè? Però contro il canone Rai. Cioè, la Rai dovrebbe dare. Ma un che c'entra il canone, scusa? Nulla, nulla. Contro il canone, nel senso che Benigni viene pagato 4 sì. milioni di euro per due giorni di lavoro, più non sono due giorni di lavoro. Beh, c'è la preparazione prima, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente, uno può pensare che sia troppo. Ma non rompete gli zebedei con questa. Non rompete. Ma, no, ma allora, se lo facessimo, cioè, dica quel che vuole, figuriamoci. Va bene tutto. In una TV privata va bene tutto, ma in una TV pubblica, che è pagata con i soldi dei contribuenti, secondo me è fuori misura. Ma più servizio pubblico di questo. No, però devo dire la verità, l'ascoltatore non sta insultando Benigni, sta dicendo una cosa molto semplice. Io sono se uno, se un privato, totale. Se un privato, no, ma tu sarai in disaccordo, adesso avrai la possibilità di dire che sei in disaccordo. Sta dicendo una cosa anche ragionevole. Cioè, adesso al di là delle cifre, non so se sono 4 milioni sì, o no, quello che è per tutta sì. la produzione o solo per lui, non lo so. Comunque sono cifre molto molto alte e i risultati sono anche molto molto alti. Allora, la questione è molto semplice, dice Davide. Se c'è un privato in grado di sborsare questi quattrini, tantissimi quattrini, eccetera, eccetera, per lo show di Benigni, dice Davide, benissimo, a me non me ne frega niente, sono soldi privati. Però, secondo Davide, la televisione pubblica non può sborsare 4 milioni per una cosa di questo tipo. È una stupidaggine. Diglielo, diglielo a Davide, perché è una stupidaggine? Invece è eclatante, perché intanto è servizio pubblico. Vabbè, ma quello che c'è, abbiamo detto che questo è il punto. Il servizio pubblico deve essere informativo, deve dare documentari. Ma quello che deve essere non interessa analizzare qui quel che deve essere. Per un comico, per quanto sia bravo, a me piace Benigni, ma è fuori misura. Ma intanto è un servizio pubblico. Fuori misura. Intanto è un servizio pubblico che è sul mercato. Che ragiona con una logica di mercato. Vabbè, perché non fare sofismi, rispondi alla cosa diretta. È questo il punto, è giusto pagare quella cifra perché li vale, ha fatto ascolto, ha fatto fatturato. Chi ha detto che perché vale quei soldi là? Prestigio. Chi ha detto che vale quei soldi? Ma l'ha detto anche chi l'Auditel, lo l'ha detto. Ma questo lo dici tu per giustificare cavolo, se vai in un ospedale pubblico e ti operano alle mammelle, Parenzo, e ti chiedono 200.000 euro, non puoi giustificarlo perché il mercato della mammella è alto. Ma come si fa a non capire? Ma lui non sta, lui sta parlando di un'altra cosa. Lui io ti ho risposto che è un servizio pubblico che è sul mercato. Meno male che se l'è aggiudicato. Ma è come per le partite di calcio, scusa. Ma è come per i diritti delle partite. Ma meno male che il servizio pubblico non si è fatto sfuggire questa roba. A me non pare che ci sia qualcun altro in grado di parlare 3-4, di pagare 3-4 milioni, che ci sia la fila, che ci sia la gola. Però magari io mi dico, sbaglio, meno male che il servizio pubblico si è aggiudicato. Allora, il aggiudicato che non c'è stata nessun tipo di asta, nessuna gara. Che si è aggiudicato, l'ha preso, ha fatto questa offerta e l'ha preso. Mantiene i personaggi come Fazio. Vabbè, questo è un altro discorso. Da 20 anni sono sempre lì. Vabbè, ma questo è un altro tema. Sì, no. Però vengono pagati fior di quattrini, invitano sempre le solite anime belle a presentare i loro libri che ti fanno venire il latte alle ginocchia, triti e ritriti. Poi personaggi tipo la Litizzetto che se la prende per lo stipendio dei politici. Ma non so, ma mi scusi però. Lei probabilmente guadagna tre volte di ma più. Ma Celentano, sta, Fiorello, tutti i grandi eventi, Celentano, Fiorello, Benigni, non li deve fare la RAI? Non ho capito. Lui sta parlando di un'altra cosa, non ha detto che non li deve fare la RAI, sta dicendo che, in particolare, adesso lasciamo perdere gli altri, sta dicendo che a lui è sembrato sproporzionato, Davide, il denaro dato a Benigni. Ma si può avere quest'idea o uno è contro, è contro l'ordine costituito? Non ma mi pare, non c'è nessun ordine costituito, si può avere anche idee sciocche. Non c'è ma dubbio. Che c'entra l'idea sciocca? Vabbè, Davide, le ha dato del cretino in sostanza. No, ancora no, tra due minuti. Ma è da comprendere, Parenzo è da comprendere. È da comprendere, certo. Fabio da Napoli, grazie. Davide, Fabio Napoli. Ciao Cruciani. Dimmi. No, buonasera. No, volevo tornare sull'episodio sulle dichiarazioni di Leopoldo Mastelloni dell'altro giorno. Sì. Sinceramente ci sono rimasto davvero molto male da napoletano. Da napoletano che ha vissuto a Roma per 9 anni. E sentire quelle parole da Leopoldo, veramente, secondo me, sono parole di uno ingrato. Perché lui guadagna adesso al momento guadagna per le cose che ha ricevuto da Napoli, quindi sentir dire quelle cose veramente le trovo. Beh, addirittura. Se lo dice una persona che ha vissuto 9 anni a Roma, io non mi sono mai sentito nemmeno per un secondo romano, e quindi sentirlo dire da una persona che invece ci mangia sulla sua napoletanità è veramente una cosa allucinante. Capisco che tu ti do del tu, scusami, capisco no, che certo. abbia un'avversione verso i napoletani. Ma chi te l'ha detta sta cosa? Ma assolutamente non è così, non mi pare. La percepisco. Ma che percepisci? Questa è un'altra follia che viene detta, non ho nessuna certo non ho. Certo, dico quello che penso. Sempre. A volte sei eccessivo, no? Quando hai. Cioè, ma vi pare normale a voi? Vi pare? Non sono eccessivo, tu secondo te sono eccessivo, vabbè, d'accordo. Vi pare normale che anche Pierluigi Pardo, che lavora qui, lavora a Mediaset, abbia dovuto chiedere scusa l'altro giorno qui, perché durante una trasmissione Tiki Taka ha esposto un cartello in cui c'era scritto Na Chiavica. Era riferito alla partita del Napoli, alla partita di pallone. Ebbene, ha dovuto chiedere scusa perché lo hanno attaccato sul web, dappertutto, vergogna. Pubblicità. Attento al DDT, sai? Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare e chi avrei corteggiato. Allora, caro Parenzo, tu che sei anche un esperto del caso Stasi. Infatti stavo proprio scrivendo perché. Ma ora va in galera lui? Ma no, perché è in primo grado. Perché no, è l'appello bis questo. Sì, è l'appello bis, sì. È l'appello bis. Allora io dico una cosa, aspettiamo le motivazioni e tutto, no? Però se uno. È bizzarra questa cosa qua. Sicuramente sono io che non capisco nulla. Il diritto, bisogna stare dietro, seguire tutto quello che vuole. Se tu sei colpevole di omicidio. Hai ammazzato uno, non è omicidio colposo, no? Perché è evidente che non è omicidio colposo, non è che come Grillo che o come altre persone che mettono sotto in macchina. Sei colpevole di ti hanno trovato colpevole di omicidio, prendi 16 anni, no, è strana questa come cosa, o no? Infatti molti su web ergastolo. Ma no, ma ergastolo, 30 anni, quello che è, cioè, ma è strano, infatti moltissimi sul web se lo domandano, 16 anni il pagamento delle spese processuali, 16 anni, 16 per omicidio, 16, non è che sei minorenne, boh, forse non ci sono le aggravanti, non lo so, ma è strano. Beh, la pubblica accusa aveva chiesto 30 anni però, bisogna capire perché i giudici hanno, cioè non è un dettaglio da poco, ma no, ma va la bene, pubblica poi... accusa aveva sì. chiesto il massimo della pena che in Italia capito, sono ma 16 anni, ma che vuol dire 16 anni? Se hai ammazzato uno, hai ammazzato uno, 16 anni, che vuol dire? Hai detto bene, bisogna leggere le motivazioni della sentenza, però ma i PM avevano chiesto chiedo, 30 però me lo chiedo, no? Me lo chiedo, 16 anni, hai ammazzato una perché è colpevole di omicidio, c'è scritto colpevole di omicidio, 16 anni, ma colpevole di omicidio 30, no? Normalmente 30, però... E non è che investi uno con la macchina. No, mi chiedo la coerenza di una... Dici, colpevole, ho letto, colpevole di omicidio. Bene, 30 anni. Al di là delle questioni, era innocente, eccetera, eccetera. Il processo rifatto, 16. Bah. Ma sicuramente ci sarà una ragione e siamo noi degli ignoranti. Però c'è una notizia, noi passiamo da Stasi... Da Stasi, chi è che mi sta chiamando? Chi è che mi chiama? Chi è che mi chiama? Passiamo da Stasi a una notizia abbastanza clamorosa. Perché pochi giorni fa, qui in esclusiva alla Zanzara, il professore, senatore, emerito Antonio Razzi, beh, insomma, in esclusiva ci aveva regalato, la sua canzone con cui vuole andare a Sanremo, non a fare il concorso, per carità, vuole andare come ospite. La vogliamo risentire questa canzone che fa incazzare un sacco di gente oppure no? Ce l'abbiamo? Faccio, mamma mia, non ho mai pentito, sono stato eletto senatore, anche perché di fame si muore, poi Crozza mi ha imitato e ora sono anche famoso, caro amico te lo dico da amico e fatti i cazzi tuoi. Fammi cantare. Allora, agghiacciante. Come direbbe Barnard, no? Agghiacciante. Allora, no, ma è incredibile. Io si ride, si scherza. Qualcuno... È agghiacciante davvero. Allora, più tardi sentirete, più avanti sentirete che cosa? Sentirete un'intervista realizzata da Marta Cagnola a Carlo Conti, in cui Carlo Conti, che è il presentatore del nuovo Festival di Sanremo, è addirittura possibilista. Parenzo, ma, amico mio, abbiamo creato un mostro, ma... è possibilista, dice, perché un no posto, ma... si può fare, ma è l'elogio della furbizia, certo, se, dice, se ci fosse stato il dopo festival sarebbe stato perfetto, però vediamo, tutto è possibile, vediamo gli autori. Dunque apre Carlo Conti, apre a Razzi al Festival di Sanremo, apre poi... ai microfoni della signora Marta Cagnola. Cagnola? Sono Cagnola. Gennaro Caserta, Gennaro. Oh, qualcuno dice che c'è il rito abbreviato per Stasi. Può darsi, non lo so. Infatti me lo domandavo. Vai, Gennaro. Giuseppe, Giuseppe. Dimmi, dimmi. Ciao, buonasera. Senti, comunque siamo al top della stronzata. In che senso, scusami? Che stai dicendo? Cioè, che cosa? Nel senso che Razzi dovrebbe aprire il Sanremo. No, aprire, non nessuno ha parlato di aprire Sanremo. Ospiti a Sanremo, punto. Nessuno, aprire, aprire Sanremo. Gennaro, Carlo Conti apre, in questo senso, Carlo Conti apre. Capisci che significa apre, Gennaro? Giuseppe. Oppure c'hai le pigne in testa? No, no, io non ti preoccupare, io ce l'ho il cervello. Magari potrei essere un po'... meno del tuo, però no, meno più, io non ho detto meno più, me, però io ti dico una cosa, non devo andare a cercare certi espedienti per scatenare un po' di, per scatenare la guerra a Napoli, per farti chiamare dai napoletani, la guerra a Napoli, la guerra a Napoli, dai. Sei andato a cercare le parole di Mastelloni, che magari non lo trasmette più neanche Televomero, no, tanto per dire. Ma io non so se non lo trasmette Televomero, io so solamente che oggi sul Mattino, sul Corriere del Mezzogiorno e altri giornali ci sono le parole di Mastelloni. Ma l'hai riportato in un... ma l'hai riportato? Io non ho riportato, guarda, ti assicuro, Gennaro, siccome tu non sai nulla, io non ho riportato niente. Sono gli altri che hanno ascoltato, capito? Ancora c'è qualcuno che ascolta, chiaro? Per fortuna che a Napoli c'è sta gente intelligente che non ha chiamato, perché tu stai provocando noi napoletani che devono chiamarti e si devono mettere a fa casino su Mastellone, le parole che ha detto, tutto che quello lì secondo me no, perché io sono stato domenica a Napoli e guarda che non è come la citava, ma l'ha detto per amore della città, cioè ma perché non napoletani ma all'ascolto è vero, ma perché ragione. Non capite che è una denunzia di uno che ama follemente quella città, ma tanto la ama, ma tanto la schifa per il disastro che c'è, adesso, amico mio. Questa è la ragione. Ha ragione Parenzo, devo dire la verità, questa volta bisogna. Ma che ha ragione? Che Parenzo sa fare la solo la trombetta a Radio 24. Ma una trombetta, guarda, è un urlo. È un urlo d'amore. Che vuol dire? Che vuol dire la trombetta? E si mette solo lì pipipipipipipi con quella voce finita. Che ha ragione? Che sta dicendo? Una città che lo ha prodotto. Ma scusa, abbi pazienza, ma uno non può criticare la propria città perché le cose vanno male ed è considerato alto tradimento. Ma di che parliamo? Ho capito. Io non ho riportato una mazza. Ma come? Giuseppe, tu sei butta benzina. Butta benzina, ma che se butta benzina? Perché stasera aspettavi, per forza l'ho detto e te lo ripeto. Perché stasera aspettavi che i napoletani ti dovevano chiamare, incominciare una sorta di, hai capito, di offesa a Mastellone, a te personalmente. Ma non c'è nessuna, non mi aspetto nulla. Stai intervenendo tu, punto, Gennaro. Ma sto intervenendo per dirti che i napoletani sono intelligenti, non ti preoccupare, non rispondono alle tue provocazioni. Bene, vai sul web, vai sul web. Massimo da Firenze. Ma perché Massimo, perché fare informazione come fai tu? Ma se non ti piace quello che facciamo, se ti stiamo sulle palle, ma perché stai qui al telefono a chiamarci? Me lo spieghi? Parli tu, scusa, è facile, perché sei a disposizione di un network nazionale, poi trasmetti a prima serata, giustamente prima la serata. Cosa meno intelligente. A prima serata. Ti abbraccio, ciao. Massimo, Massimo Firenze, ciao. Dimmi. Io, per quanto riguarda le dichiarazioni di buon anno sulla tortura, veramente un incivile. Buon anno sulla CIA, ha fatto molto bene, secondo me, invece, molto molto bene. Mentre tutto il mondo... certo, è la mia opinione. In qualche caso la tortura è utile, è così. Ma come lui dice, come tu poi quello è un parlamentare europeo. Se la tortura è utile, allora io potrei dire, sarebbe giusto che... Mi tagliassero la testa, no? No, però Parenzo poi ci deve spiegare se per ottenere informazioni fondamentali che salvano la vita a Israele la tortura non è ammessa oppure no? No, infatti Israele è la bandita. In nome di cosa? Israele non c'è la tortura. Ufficialmente, manco negli Stati Uniti c'è in realtà. No, scusatemi. Vai a parlare Massimo. Ufficialmente cosa? In nome di cosa vengono fatte queste torture? Cioè, si parla delle stronzate che dice questo qui? No, Bonanni... Buon anno, quello è un buon altro. Buon anno, però no, ma guarda, non lo considero nemmeno, quindi non mi ricordo. Ma perché? Che cosa bisognerebbe fare con buon anno, secondo lei, scusi? A parte quello che bisogna fare, non bisognerebbe parlarne, punto. Parlarne, cassato, morto, finito, cassato, distrutto. Cassato, morto, perché uno che parla così... Magari pure sottoterra, no? Pure sottoterra. Sottoterra, questo lo dici tu, voglio dire, ma comunque... Lo dico io, è una domanda, magari... Per uno che parla così, i terroristi potrebbero essere legittimati a metterlo sottoterra. Ah, perché ecco, uguale. Bene, bravo. Dov'è la differenza? No, tra torturare ci sono famosi, avvocati americani, peraltro di estrazione ebraica, come Parenzo sa bene, che si sono pronunciati a favore, in qualche caso ovviamente, della tortura. Sbagliato. Cioè hanno detto che era legittima. Sbagliato, capito? Infatti legittima. Israele li ha poi, condannati. Per carità, la sua idea è questa, che è tutto sbagliato, per carità. Da Napoli. Ciao Giuseppe, ciao David. Vai, dimmi. Premetto che quello che dirò adesso mi tirerà addosso offese da tutti i napoletani, però lo devo dire perché sono una persona onesta e schietta e sincera. Allora, Mastellone ha ragione, Napoli non solo è malfamata, è anche sporchissima. Io sono nato e cresciuto a Napoli, da 36 anni sto a Napoli. Però purtroppo i napoletani certe cose non le vogliono vedere o fanno finta di non vederle, capito com'è? E a Napoli dice ogni scatafone è bella mamma sua, cioè la mamma e il padre non diranno mai che ho figlie brutte, handicappate, hanno sempre che è bella, capito? Quindi questo volevo dire. Basta. Ciao Antonio, ciao. Renato? Sì? Sono Giuseppe Cruciani, come stai? Ciao Giuseppe. E Parenzo, ciao caro. Ciao, ciao. Non è un, non è un agguato, eh? No, figurati, ormai mi ho passati tutti i colori, per cui non mi spaventa niente. No, figurati. No, però ho saputo una cosa. Sì. Ma è vero che torni a scrivere, una buona notizia? Ascoltami, è una cosa riservata. Lo so, appunto, ma sai, noi non è che stiamo qui a pettinare le bambole, come si dice in gergo. No, ho saputo che dal primo gennaio intanto ormai è stato riammesso anche a Londra, ma insomma, non c'è notizie. Per chi scriverai? Per Il Fatto? Può essere. Dai Renato, su, confessa, dai, confessa. Renato. Guarda, io non, siccome ho avuto tanti guai, non faccio la spia, guarda. Ma come non fai la spia? questa è molto buona però, Questa è buona. Dai. Ma non è che ti devi nascondere. No, aspetta, questa è molto buona. È una battuta straordinaria questa. Sì, non faccio la spia. Bisogna chiudere qui. Basta. Non faccio la spia. Vabbè, dai, torni al giornale dal primo gennaio, lo possiamo dire? Dai, basta, fine. Beh, se lo sapete, mi fa piacere che lo diciate voi. Ecco. Dunque, ma però la vera notizia sarebbe stata se tu appunto, dice Parenzo, la vera notizia al giornale, è se vabbè. Ma invece chiedere ospitalità al Fatto, questo sarebbe stato ordinario. Guarda, Repubblica, questo, agli amici al giornale, di Repubblica. Al fatto lavorano due persone che sono state a libero e che credo di aver contribuito ad assumere. Addirittura. Magari per riconoscenza potrebbero farmi assumere. Ma sei di nuovo assunto al giornale o no? No. No, contratto di collaborazione. Collaborazione. Qualcuno si incazzerà, eh? Guarda, preferivo cominciare poi che si arrabbiassero invece che si arrabbino prima, perché sono capace anche di impedirmelo, sai com'è. Ma tu dici chi impedirtelo? Di tutto, Repubblica, no. Ordine dei giornalisti? Di tutto, no, l'ordine dei giornalisti no, ma neanche Repubblica. Alcuni di Repubblica si sono addirittura dimessi dai loro incarichi, diciamo... Dell'ordine, sai che roba. Ma perché ti fanno questa guerra? Perché ti fanno questa guerra così pazzesca, Repubblica? Ma non è Repubblica, guarda, in quanto tale, sono alcune persone di Repubblica, mi hanno detto che poi la famosa assemblea che all'unanimità ha votato per la mia morte civile, erano poche persone che non avevano nient'altro da fare, di meglio. Però morte civile, dai. Per me io ho vissuto questa cosa come una morte civile. No? Uno potrebbe dire se si commettono degli errori, errori che anche tu hai ammesso, uno deve fare un altro mestiere. Potrebbe essere un ragionamento. Beh, questo non può essere un ragionamento, ma visto che visto che io sono capace di fare solo questo, non penso che sia giusto farmi morire. Senti una cosa, ma magari al giornale qualcuno licenziato si incazzerà, sai, c'è stata tutta una... Ascoltami, è una collaborazione, io penso di persino di portare un po' di copie, penso un po' che presunzione, 12 o 13 me le porto. Io ho avuto molta gente affezionata, sì, che mi ha seguito. Comunione, Liberazione, eccetera, eccetera. Ma non solo, adesso non mettere di mezzo che... Vabbè, è il tuo mondo, è il tuo mondo. Quello è. O ti hanno tradito pure loro? No, assolutamente no, stiamo scherzando, ci mancherebbe altro, manca solo questa. No, questo è impossibile, al massimo sono io che tradisco loro, ma no, viceversa è impossibile. Ciao, Feltri, per esempio... Sono oggetto di un amore molto più grande, soltanto che uno non se ne accorge, perché sono amori silenziosi, amori di persone non importanti, ma che sono molto più preziosi e forti di quelli che mi detestano, no? Che poi non ho mai capito perché... Comunque... Vabbè, sai, Betulla, la spia nei confronti a Repubblica di un giornalista di Repubblica. Guarda, questa cosa qui, io adesso non è una cosa da affrontare. No, certo, non c'è dubbio. Sono in grado di smontare. Io non vedo l'ora di fare un confronto pubblico che ho sempre chiesto e non ho mai avuto, con tutti quelli che... Con Bonini. Ma anche, non ho nessun problema. Confronto pubblico con i miei nemici, sì, con i miei avversari. Con i miei nemici, con quelli che hanno un'idea. Con Travaglio. Che corrisponde con Travaglio. Sì, anche se con Travaglio è difficile perché non si riesce a parlare. Lui ha già tutto il copione scritto, caspita. Se riusciamo a togliergli il copione, deve avere un libro da cui... Come comunque è stupendo. Betulla Farina torna sulla breccia e dice mi voglio confrontare con tutti, da Travaglio a Repubblica. L'ho sempre stupendo. Detto, anche con Spataro, anche con DPM Spataro. Pronto a scrivere sul Fatto, molto buono. No, quello no. Però, sì, no, ma io sono pronto a scrivere da te. Cioè tu scriveresti pure sul Fatto? E perché no, scusa? Ascoltami, Io sono convinto, secondo un vecchio discorso, che la forma del giornale dove uno scrive prevale persino a volte sui contenuti, no? Per cui sì. È chiaro che se tu scrivi sul Fatto, un po' dai tu, ma prendi molto dalla... tu è il primo giornale che leggi, di la verità. No, non è così, io resto affezionato come tutti quelli che hanno cominciato a leggere un giornale. Io ho 8 anni che leggevo il Corriere, ancora adesso il primo giornale che prendo in mano è il Corriere. Vabbè, ma quanto guadagnerai? Si può dire quanto guadagnerai, no? Questo assolutamente no, cioè mi sembra che non è una cosa pubblica, no? Cioè, va non bene, è, non sono alla RAI, no? Ciao, a presto, ciao Renato, ciao. Renato Farina, alias Betulla, torna a scrivere. Vabbè, cazzi suoi. Matteo, Trento. Povero Betulla. Ciao, buonasera. Io volevo intervenire per dire. No, no, che... per carità, ognuno. No, cioè, vai. Pronto? Sì. Io ho pure avuto la ragazza di Napoli 3 anni. Io adoro i napoletani, mi piace tantissimo Napoli, però per lavoro ci sono stato ultimamente. Ragazzi, cioè, è una vergogna, onestamente. Buche dappertutto, pericolosissimo. Polizia da nessuna parte. Cioè, ma io non capisco perché bisogna prendere di mira il signor Mastelloni, che dice la sua su Napoli, non anche con una certa pena, anche con una certa, come dire, angoscia, perché dice che non vorrebbe più vivere lì, che è tutto malfamato, eccetera eccetera. Vero, non vero, però lo massacrano perché denigra Napoli, perché tradisce Napoli, perché non si può dire una parola negativa su Napoli, che si scatena l'inferno. Me ne dicono di tutti i colori. Adesso c'è uno che mi ha scritto, spero che qualcuno ti spezzi le gambe. Delle cose pazzesche, forse. Si passa tutto alla Digos qui, signori miei, si passa tutto alla polizia, nome e cognome. Ovviamente lo si fa con le persone che esagerano, non con tutti. Se uno mi dice pezzo di merda, chi se ne frega. Se uno mi dice spero che ti spezzino le gambe, che qualcuno ti aspetti sotto, semplicemente perché ho intervistato il signor Mastelloni e perché ho le mie idee, beh, il nome viene segnalato. C'è uno, un ciccione enorme, cioè non so come si chiama nella foto, un ciccione enorme. Beh, questo c'è che... No, uno alto, un ciccione si enorme. Chiama l'avvocato in diretta subito. No. Paolo, provincia di Monza, chi è? Sì, ciao Cruciani, sono Paolo. Ma chi sei? Paolone Bocedi? No, che è Paolone Bocedi? Paolo Re. Chi è Paolo Bocelli? È un signore. Paolone Bocelli. Paolo Bocelli. Non le sveliamo perché Paolone. Lo sa perché si chiama Paolone? Lei lo sa perché si chiama Paolone? No. Per le misure. Esatto. No, ma è da lui stesso confessato. Grande difensore di Corona, presidente di un'associazione anti-racket. Eccetera, no, eccetera. Difensore di Corona, no, a me risulta sia un altro il difensore. No, ma non di difensore dal punto di vista processuale. Anch'io sono un difensore di Corona. Allora, comunque, che volevi dire? Dimmi. No, niente, volevo solo sottolineare che oggi Stasi ha preso 16 anni per un omicidio presunto, perché vabbè, non c'è ancora la sentenza di terzo grado, mentre Corona si è beccato 14 anni e 2 mesi, adesso ridotti perché grazie al nuovo difensore la pena gli è stata ridotta a 9 anni. È una vergogna. Cioè una Stasi vergogna. 16 anni e Corona 14, poi ridotta, eccetera eccetera. Sì, ridotta. Fermo lì, fermo, pubblicità, fermi tutti, pubblicità. Lo faccio da parezzo. Amici miei, siamo al top. La zanzara è il tendone dei fenomeni da baraccone. E ripeto, lo dico con amore. Allora Paolo, Stasi, che c'è Parenzo? Che c'è? Annuncio, dimmi. Alle forze dell'ordine per cortesia. Sì, dimmi che c'è. Che il succede? Sabato 20 dicembre a Milano c'è l'internazionale nera. Ma saranno 4 neonazisti e fascisti da tutta Europa si ritrovano a Milano, dai greci di Alba Dorata, ai britannici del British National Party, ai signori di Forza Nuova, all'Eurogruppo tedesco. Con un personaggio che elogia Hitler. Amici magistrati all'ascolto, forze dell'ordine, appello numero uno da qui a sabato. Recarsi il 20 dicembre a Milano, fermare la Dunata Nera. Ripeto, fermare la Dunata Nera. Ma sei impazzito? Ripeto, fermare la Dunata Nera. Tu sei completamente pazzo. Questo appello tipo Radio Londra. Questa è Radio Londra. Ma io sono contrario, ognuno ha il diritto tentato di, no, di riunirsi. Questa è Radio Londra. Ma quando mai? Ma non hai fatto, sì, Radio, sì, Londra? Questa è la Zanzara, ma sei impazzito. Come durante l'occupazione, come durante... Radio, comunque, Londra. Da qui a venerdì ogni giorno verrà ripetuto questo appello. Ti prego. Bravo, esatto. Allora, Paolo, chi era prima? Paolo, sì, provincia di Monza, sì, dai. Sì, sì, sì, sì, ciao. Poi? No, niente, volevo ripetere, è che è una vergogna a mio avviso, cioè non si possono utilizzare questi metodi veramente, che io ritrovo veramente vergognosi, è stato vergognoso. Non tanto, come dicevo prima, la condanna per Stasi, questa disparità, questa differenza di... Vabbè, ma lì c'è un cumulo di pene, che vuol dire? Non è che si ha preso 14 capito, anni così per grazia ricevuta, dai, ho capito, ho capito che è stato un cumulo di pene. Infatti nessuno sta dicendo che è un santo, nessuno dice che è un santo, ma gli hanno contestato, per dirti, un'estorsione, quando il presunto estorto dice di non essere mai stato, di non essersi mai sentito minacciato dall'estorsore. Ma ci rendiamo, no, conto? Ma non è quello il punto, dai, ma no, ci sono un quello. Cumulo di pene, ma no, quello l'ha quello, detto dopo, quello, si poteva, lo poteva dire prima il signor Trezeguet, allora, no? Ma l'ha detto, ma l'ha detto in un'intervista, lei è mai stato minacciato da Corò? L'ha detto anche durante il processo, l'ha detto, ragazzi, l'ha detto, vabbè, ho capito, ma adesso qual è il punto, scusa? È il punto che per me è vergognoso, cioè, che c'è una disparità tra Corona e cosa, secondo te? Tra Corona, no, e... ma non solo tra Corona, cioè, tanto per dire, anche la parente di Prodi, che tanto la parente di Prodi, che c'entra la parente di Prodi? Sì, sì, la Franzoni, la Franzoni, ma non la parente di Prodi, ma non è vero, per niente. Sì, ma questa è una puttana stupidaggine. Ma no, sì, e anche lei si è beccata 16 anni e adesso è già a casa. Corona per due foto... Io ripeto, non riesco ancora a capire, me lo spiegheranno i tecnici, come si fa a uccidere con crudeltà ed essere condannati a 16 anni. Qualcuno dice infatti, il rito abbreviato, ma ci sono avvocati che mi hanno scritto, tra cui l'avvocato Cicconi, sì, e ha detto che comunque anche il patteggiamento, il rito abbreviato, scusa, anche con il rito abbreviato si beccano 30 anni gli assassini. Per cui non è detto, non è che con il rito abbreviato sicuramente uno ottiene no, rispetto alle richieste dell'accusa. La richiesta dell'accusa era di 30 anni. Ora bisogna capire, perché questo ne ha presi 16 per un assassino, per un assassino di questo tipo. Posso spiegarselo? Perché? Ma che ne sa, non lo sappiamo, non lo so io, non lo sai tu, bisogna capire e aspettare le motivazioni. Faccio l'avvocato, scusa, non faccio il penalista, però qualcosa so. Per dirti, 30 anni, quando l'accusa chiede 30 anni, con rito abbreviato diventano 16, capito? No, ma non è vero, molti dicono che non è così, comunque vedremo. Paolo, grazie. Paolo, provincia di Caserta. Sì, comunque, questa qua è una trasmissione aperta, non è che siamo giuristi noi. Se qualcuno, qualcuno dice non potete parlare del perché ha preso 16 anni, no, ne parliamo invece, ne parliamo perché vogliamo capire. Certo, aspettiamo tutto, però vai. Sì, sì, Giuseppe, no, volevo intervenire sulla polemica innescata da Mastelloni sulle parole. Fermo restando il diritto di critica di chiunque. C'è da dire pure che la gente si è rotta i coglioni di sentire le stronzate che quotidianamente lui e altri come lui sparano su Napoli. Ecco perché la gente si incazza, capisci? Sì, ma ho capito, ma se incazzatevi pure, se uno la pensa, cioè se uno ha delle critiche da muovere nella propria città, anch'io dico ma che ogni tanto... Ma quale critica? Quella delucubrazione di un cretino, cioè Leopoldo Megoglioni spara... Come Leopoldo Megoglioni, invece di Mastelloni Megoglioni, dici? Ma sì, sparano le stronzate su una città che ormai non vive e non frequenta più, perché sta fuori con la testa, ma si rendi conto di quello che ha detto quel signore lì? Che ha detto? Ma dai, ma parla di Napoli come se fosse Bratislava, non che Bratislava non sia una bella città. No, Bratislava guarda è una città perfetta da questo punto esatto, di vista. Esatto, che perché Napoli che cos'è? Fammi capire. Beh, insomma, non è Bratislava, amico mio. Dai, non neanche è Ginevra. Non è Ginevra, non è Ginevra, dai, su. Sì, certo, no, certo che non è, ci mancherebbe. La città lo vogliamo dire o no? Lo vogliamo dire o no? Certo. E vogliamo dire che una città con una disoccupazione pazzesca deve essere linda, pulita e perfetta. Ma che c'entra la disoccupazione, scusa? C'entra, dove c'è il disagio sociale c'è un altro. Ah, il disagio sociale, sì, certo. No? E magari è pure colpa dello Stato, no? E magari è pure colpa dello Stato. No, è colpa nostra. Noi siamo pieni di fabbriche che non andiamo a lavorare, pieni di fabbriche che vogliono lavorare. Ah, e lo Stato, eccetera. Sì, lo Stato con Napoli cattivo. Lo Stato cattivo con Napoli, il Nord cattivo con Napoli, certo. Il Nord cattivo. Ma è la visione che che voi avete di una città che ma io non ho nessuna visione, non ho nessuna visione. Guardate le minchiate di Leopoldo Mecoglioni. Leopoldo Mecoglioni, questa è l'unica cosa che odio nei confronti di Mastelloni, mi pare veramente agghiacciante. Agghiacciante la reazione, agghiacciante quello che ha detto, fatemi capire. Cioè che uno non possa criticare, esatto, ripeto ancora, con un atto d'amore, perché quello ama quella città. Dai, ma la odia per il ma non la odia, allora, la odio, attacca, lo dico io. Lei lo attacca perché è frocio, Paolo. Ma chi io? Ma stiamo scherzando, che ma ne so fa passare per omofobo, ma state scherzando. Vabbè, non si può criticare Paolo, uno ciao. Paolo, ciao. Walter, ciao. Roma. Walter. Ah, tra l'altro apprendo, dimmi, che l'internazionale nera che si riunirà a Milano basta con sabato, sta stronzata, hai rotto la palle, dai, il luogo del convegno Europa una grande, grande e libera sarà reso pubblico solo poche ore prima dell'appuntamento. Ma chi se ne fotte? Capito? Ma chi se ne fotte? No, chi se ne fotte? Interessa nulla. Solo te. Da tutta Europa interessa arrivano solo nazisti, te. Nazisti va bene, e fascisti ma chi se ne a Milano dentro un tendone. Per te va bene. Vaffanculo, no? Che incredibile, eh? Ma cioè, ma va bene, per me tutti Alba possono Dorata, parlare, anche i nazisti. Alba anche Dorata. I nazisti possono parlare. Ma tu anche sai che un ex deputato di Alba Dorata è stato incarcerato per omicidio? Amico, in quello Grecia. È un altro discorso. Quello è stato, ammazza una persona che sia di Alba Dorata oppure per di Alba politici. Di Alba o di Pioggia scherzando. Dorata è la stessa cosa. Beh, sono due di Alba Dorata, cose dorate o di Pioggia diverse. Dorata sono diverso, due scusa. Cose dorate molto diverse. Walter Dero, a te piace la Pioggia Dorata? Non credo. A te piace la Pioggia Dorata? Guarda, è una porcheria. No, non mi piace né l'alba né la pioggia dorata. Walter sono Roma. Due porcherie secondo me. Tutte Walter due. Da Roma. Diverse. Hai paragonato diverse. Alba Dorata alla Pioggia Dorata. No, ma infatti è eccessivo, però hanno mi fanno Walter schifo da entrambe. Roma. Se ti piace farti urinare addosso, guarda. Hanno una similianza entrambe, diciamo. Hanno una similianza, sia l'alba che la pioggia. Allora, la questione è, vi piace no, ragazzi, è troppo ardo questa cosa qua. Non ti si prego. Può aprire il dibattito. Sì, ti prego, hai ragione forse. No, non si può aprire il dibattito. Ma non sulla perché Pioggia lui Dorata. Diceva ti prego, però in continuazione ti prego. Cioè, uno più lo attaccava, è l'intercalare. Più, no, ma lo diceva perché uno ti attacca, no? Più, sì, più sì. Tu lo attaccavi, più ti prego. Ti prego. Walter da Roma. Esatto. Walter. Una cosa incredibile. Dimmi. Parenzo. Vai. Eccolo, sì, avanti. Ma è buon Parenzo, un po' di ferie non se ne può prendere? Sì, perché adesso penso che sia arrivata la frutta. Ferie, fra poco andiamo in ferie, due settimane. Allora forse lo recuperiamo, perché secondo me la euro non gli basta. No, vabbè, che dai, è successo? No, andiamo, vediamo che è successo adesso, nel merito. Oggi che ha fatto? No, oggi devo dire, a parte che ultimamente si sta contraddicendo, perché odia praticamente il regime, no? Dice, quello è un dittatore, però poi a sua volta lui dice, quello non deve parlare, quello non deve fare. Vabbè, ma quello lo dico come in polemica con gente che secondo me dice delle fesserie. Ma non frega niente a nessuno. Ma parlassero dentro un tendone anche i nazisti, ma chi se ne frega, dai, su. No, quello è diverso. Walter, allora poi? No, poi per quanto riguarda il discorso del fascismo, che lui tanto va a odiare, tra virgolette, o comunque non va ad accettare, rimango un po' contraddetto per un semplice fatto che uno, forse l'etimologia della parola non la conosce o quantomeno fa finta di non conoscerla, e poi non capisce, o quantomeno forse ho sbagliato il termine, non comprende chi era il Mussolini della prima ora o il socialista della prima ora. In che senso, scusa? Ma nel senso che nel momento in cui il Duce ha dato vita a quella che era la sua natura vera e propria, ha creato tutto un sistema che ancora oggi utilizziamo, tra virgolette, a favore dell'assistenzialismo, a favore del popolo e per il popolo. Ma lei è mussoliniano in pratica? Non si tratta di essere mussoliniani, si tratta di essere logici in quella logici, che era una realtà. Sì, ma Mussolini era un dittatore, sì, basta! Logici. Hai rotto il cazzo, basta! Era un dittatore, Walter, adesso mi incazzo veramente. Era un dittatore, basta con questa distinzione tra una cosa e l'altra. Era un dittatore, punto. In questo caso però sono... Come dittatore in un popolo dove non si poteva meritare altro che una dittatura per avere una regolamentazione che oggi non c'è più. Ma non c'è più disciplina. Ma l'Inghilterra non c'è più regime, che non ha mai avuto disciplina, fascisti, la disciplina. L'Inghilterra e l'America non hanno mai avuto i fascisti, sono un grande paese, perché a differenza della Francia, della Germania, però mio amico mi suggerisce, l'Inghilterra Parenzo, non ha mai Parenzo, avuto amico, il fascismo. Un mio amico io mi quando vado in Inghilterra sono tranquillo, vedo un vecchio di 80 Vabbè. Anni per strada, lo abbraccio perché so che stava dalla parte perché giusta. Ne sai, c'erano pure, in c'erano Italia anche là i fascisti, lo non c'erano sì, fascisti no, in Inghilterra, no, c'era quello non là, c'erano Mosley, mai Mosley. Il governo. Aspetta un attimo, fuffa c'è un mio amico, c'è un mio amico che mi dice pioggia dorata, la vera svolta della puntata, adoro approfondire, please. Beh, siamo al top, siamo veramente Alba, al top. Allora, Alba Dorata no, è un movimento. Pioggia dorata, la vera svolta della puntata. Adoro, approfondire, please. Ti prego, approfondiamo. L'onorevole Nappi, per quello, diciamo. Pubblicité. Non siamo. Non siete seri per niente. Ascolto la sua trasmissione saltuariamente e sinceramente non ho capito a cosa lei serve. A un cazzo. A me stesso, a noi. Sì, è il conduttore, questo non c'è dubbio. A strappare il sorriso. A strappare un sorriso, un incazzato. Oppure a far incazzare qualcuno, ecco, queste due cose. Allora, alla mia amica Dandola pare piaccia la pioggia dorata, Parenzo. Sì, è una notizia fondamentale questa cosa qua. Mamma mia, chiamiamo subito zio Mauro allora. Alla mia amica Dandola, la Dandola, la Dandola. La signora Dandola, la Dandolina. Dice anche che c'è il figlio di un noto imprenditore che a Milano fa i party con tema pioggia dorata, ti giuro. Ma che bel ambiente. Lo dice lui, eh? Ma che è un bel ambiente? È un ambiente di maiale. Che è un bel ambiente. È ambiente di maiale. Certo, questa ha ragione su questo, dai. E poi il Partito Democratico a Faenza fa passare la festa della famiglia naturale. Poi si sono pentiti. Questa dopo. Questa roba che manda i matti proprio. Cioè alcuni del PD poi adesso dicono a Faenza, no? Hanno aderito a un ordine del giorno di Forza Italia. Di Forza Italia. Poi dicono no, l'abbiamo fatto perché nello bla bla bla bla bla. Cioè esponenti del partito, uno se lo può aspettare da esponenti di Forza Italia, no? Anche se poi sì. C'è, come dire, no, il loro capo non è proprio, no, non è proprio riceve Luxuria giustamente. Esatto, ma per cui anche lì le cose vanno cambiando. Forse però a Faenza non è arrivata la notizia. PD, esponenti del PD fanno passare la festa della famiglia, che poi io mi impazzisco, la festa della famiglia, ma che cazzo è la famiglia naturale? Questo è il punto. Cioè, ma che vuol dire la festa della famiglia naturale? Ma non vuol dire nulla, perché ci deve essere una festa della famiglia? Non vuol dire niente, niente, poi il sindaco si è scusato. Una cosa pazzesca, guarda, una cosa pazzesca. Ti piace un mondo così? Beh, a te piacerebbe un mondo così invece? No, no, a lui, no, sì. A lui sì, a lui sì. Al Taliban, voglio la mamma, al nostro amico Taliban, lo Taliban. So, Califfo di Nolfi. Crozza, Crozza e le Olimpiadi, Crozza e le Olimpiadi. Devo dire, a proposito di Cuba, della notizia oggi di Cuba, dell'apertura dell'America, cioè, ovviamente non abbiamo parlato qui alla Zanzara, però c'è una meravigliosa uscita di Fabrizio Rondolino che dice anche Cuba si è arresa, manca solo Fassina. Meraviglioso, l'ho trovata stupenda. Stefano Fassina, esponente della sinistra del PD, Crozza. No, bisogna rilanciare la mafia nel mondo. A me sembra che se la cavicchino benissimo anche senza Olimpiadi. Però Giova, sai cosa ti dico? Che io voglio essere propositivo. Basta coi gufi. Guarda che potrebbe essere anche l'occasione per proporre nuove discipline olimpiche. Che so, l'appalto sincronizzato, le truffe dal trampolino, il patteggiamento artistico, il buzziball. Lì il buzziball è stupendo, siamo fortissimi. Vinciamo la COP del mondo. Guarda Giova che potrei andare avanti per ore. L'etica leggera, lancio della mazzetta, corruzione a ostacoli. No, corruzione a ostacoli è una stronzata. Scusate, quando mai in questo paese abbiamo messo ostacoli alla corruzione? No! Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì. Qui è la sauna di Gessate. Sì, ciao. Volevo dire al dottor Bocelli che per Natale facciamo degli sconti speciali per andare alla sauna di Gessate dove ci sono scambisti, eccetera, eccetera. Ma io non faccio quelle cose, io sono andato una sera solo per vedere cosa stava capitando. Mm. No, però noi facciamo degli sconti speciali, abbiamo il suo nome in rubrica, capito? Sì, va bene, ok. Che sconto mi fate? Beh, 50%. 50% va bene. Va bene, 50%? La sauna di Gessate, sai dove fanno gli scambi? Sì, la sauna di Gessate, sì, sì. Ci andava anche Berlusconi. No, come andava anche Berlusconi? Sì, sì. Non lo sappiamo, non abbiamo mai avuto Berlusconi come cliente noi. Allora mi sono sbagliato, allora forse ci andava quello che oggi è stato condannato, come si chiama, Stasi. Che no, quello non ci andava. Comunque, guardi che abbiamo anche introdotto un nuovo servizio che è la Golden, come si chiama? Golden, sa, la pioggia dorata. No, nuovo servizio, non so se a lei gradisce. No. No, quello no. Magari qualche mio amico può essere. Paolo Bocedi, buonasera. Ciao. Come stai? Come state? Bene, bene. Signor Paolone Bocedi, che dici, Paolone, della... Ma io volevo intervenire su questo scandalo, come ho parlato l'avvocato prima, che vi seguo. Questa cosa io non la digerisco, il fatto che Stasi abbia ucciso la sua fidanzata, abbia preso 16 anni, quell'altro di Roma che ha ammazzato una ragazzina di 16 anni, oltretutto agli arresti domiciliari. Qua c'è un sacco di gente assassina, barbari, che sono gli arresti domiciliari e il povero Corona sta morendo. Sì, ma perché tutti, io non capisco, quello va bene, adesso Corona tu fai la tua battaglia per la... Ma la battaglia perché sono cose ingiuste, come... Ho capito, come, Paolone, come, però come, il problema... Come quel pedofilo che ha violentato una bambina di 8 anni. E oggi insegna ancora e fa il professore a Torino. Okay, caro Paolone, però amico mio, il problema è molto semplice. Non è che ogni cosa che succede, come dire, il paragone sia la pena che ha preso Corona. Perché non è possibile, non è che sia, come dire, il caso più clamoroso che c'è. Ha preso 14 anni, adesso poi ridotti a 9. No, perché c'è l'aggravante, cioè se fanno il cumulo arrivano a 15 anni. Vabbè, ma com'è la situazione? La situazione è che io sono contro anche un'altra cosa, volevo dirvi. Dimmi. Ma chi è che è d'accordo a fare Presidente della Repubblica Prodi? Beh, non lo so, molti a sinistra nessuno, sono d'accordo. Nessuno. No, nessuno. A sinistra un po' di gente è d'accordo. Ma secondo me ci sarà un calo delle mortadelle anche, secondo me. In che senso? È anche calo di mortadelle, perché insomma nessuno lo ama. Lui è quello che ha introdotto l'euro in Italia. Vabbè, insomma, sei pure contro l'euro tu, Paolone. Ma certo, io sono dalla parte di Salvini. Salvini è un cavallo, è una persona. Ma quale cavallo? Un cavallo che vuol dire un cavallo? Cioè, qui non equivochiamo. Una persona che quello che pensa lo dice. Pure Paolone Bocedi sul carro di Salvini. Ormai c'è chiunque, Parenzo, sul carro di Salvini. No, io non voto Lega, però mi piace Salvini. Ecco, diciamo appunto, così. Però io trovo scandaloso, che volevo dirvi, perché mi sono occupato per primo di Fabrizio, non trovo giusto che Fabrizio deve passare, ma io sono fiducioso, dai, insomma. Però ma avete imbarcato pure la Russa nel collegio difensivo là? Sì. Il professor La Russa. Volevo ricordarti quel locale di Varese che ho segnalato anche. Ma scusa, ma come va a proposito? Come va a proposito? Con cosa? Ma un locale che secondo me non è in regola, ho capito. No, ma come hai fatto poi là col tuo attrezzo, Paolone? Insomma, lì io sono andato solo per verificare. Ecco, ma com'è il mantenimento di una cosa di questo tipo? Cioè il mantenimento, come si fa? Ma mica è un animale. Come si fa il mantenimento? Cioè, uno che ha un problema come il tuo, cioè un pene così, tu dici, poi bisognerebbe poi così certo, lungo, no? Certo. Così lungo, eccetera, così. Ecco, come si fa a convivere con una cosa così? Che bisogna convivere, si fa l'abitudine, no? Cosa c'entra? Se si fa l'abitudine, dici, no? Come i commercianti che pagano il pizzo fanno l'abitudine di pagare il pizzo, per loro è una cosa dovuta, per me è una cosa dovuta anche ribellarmi a questa a questa piaga e anche a chi magari quando... Beh, ma che c'entra questo? Scusa, è un'altra questa piaga? Perché, perché magari quando uno si ribella anche perché magari è nato così, capisci? Non è che... Ah, ho capito, sei nato così, no? Però diciamo che stiamo vincendo molte battaglie contro la criminalità organizzata e questo ci fa onore. Domani sarò. Ma adesso questo non ce ne frega niente a noi, Paolone. Adesso questo no, è un altro discorso. Perché? No, ci sono ma no, ma questo non ce ne frega. Ma io volevo fare un appello ai poveri commercianti che stanno pagando il pizzo in silenzio. Vabbè, ma quello è l'appello adesso no. Appello adesso no. Ciao Paolone, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao. Va bene, ragazzi, Francesco, provincia di Napoli. Francesco, provincia di Napoli. Ok, allora volevo rientrare nella polemica con riguardo a Napoli. Diciamo che Marcellone ha ragione, che chiunque ha diritto di criticare la sua città è oggi Napoli, da Spacca Napoli a Posillipo, a via Petrarca, a via Cilea, il Vome, è una donna di 80 anni struccata. Chi, Napoli? Sì, struccate, non è stata dunque mai Mastelloni coltivata. Ha ragione, Mastelloni ha ragione. Sì, Mastelloni ha ragione, che in questi qua non hanno capito un cazzo, da Bassolino a questo Gigino Manettara con Fusini, da Francesco Rossi che con le mani sulla città, la Cassa del Mezzogiorno, il laurismo, non hanno capito niente. Napoli è ormai è una bella cartolina, ma da lontana, ma se tu cammini per Napoli, cioè dopo le 15, 16 di pomeriggio, ti devi guardare le spalle, non c'è niente, non c'è controllo, questo, perciò non c'è vivibilità. Ma è vero come dice, come dice Mastelloni, che è colpa di quelli che vengono da fuori? Poi un'altra cosa vuol dire, scusami Geppino, quando riguarda la settimana scorsa, da ieri mi sembra che a Parenza parlo di Prodi con riguardo all'elezione al Quirinale. Sì. E lui prese per le parti di Prodi, gli do anche ragione per carità, ma se tu vai un po' indietro riguardando a Prodi, ci ha fatto pagare l'Eurotassa per entrare in Europa, i Petromin, penso che bisogna chiamare sicuramente a Massimo Teodoro, che è molto più informato di me e anche di Parenza. No, volevo dire che lui parlava l'elezione del Presidente della Repubblica. Allora io dico così, perché parla questa persona che ci ha fatto pagare l'Eurotassa e lui dice ci ha fatto andare in Europa, però abbiamo pagato la tassa a Kohl prima che veniva la Merkel. Va bene Francesco, grazie. Angelo, Lucca. Pronto? Angelo, dimmi. Buonasera. Senta, io volevo dire solo una cosa, volevo approfondire un po' il discorso sui napoletani, no? A parte che sono d'accordo con Mastelloni, anche perché ci sono pure io nato purtroppo lì. Sì, sì. Io perché purtroppo, scusi, perché? Perché non ci tengo proprio a essere napoletano, perché quando a un bimbo, a un ragazzo, viene messa una pistola dentro al sedere e la mamma dice che è un gioco, quando un carabiniere fermano tre delinquenti, è successo quello che è successo. Vabbè. E come ha detto questo signore prima, dopo io faccio il trasportatore. E allora? Io penso che la migliore cosa è mettere i napoletani dentro ai forni crematori. No, vabbè, dai, su, eccolo Angelo, qua. Su, ma che ecco vuol dire? Qua. Ecco l'idiota. Ma dai, ma non c'entra niente questo. 2027, uno può criticare allora, quello che vuole, ma i napoletani arrivato, dentro i forni crematori. È arrivato dai, l'idiota, Angelo. È arrivato. Ma tu sei anche napoletano, vergognati. No, io mi vergogno di essere napoletano, forse non ci siamo capiti. Ma si deve vergognare per quello che ha detto. Mi vergogno di essere napoletano. Lei ma si perché deve ti vergogni di essere napoletano? Per l'immondizia che ha detto. Perché non ci tengo a essere proprio napoletano. Ma ho capito, ma lei è napoletano, sta rinnegando se stesso e vabbè, questo ci sta cazzi suoi. Ma in più lei sta dicendo un'altra cosa, che bisognerebbe mettere tutti i napoletani in un forno crematorio, cioè è una cosa incredibile. Allora, o forno crematorio o i termovalizzatori. Vabbè, è completamente un idiota. Ma lei sta scherzando, è un delirio. No, no, lei ed è poco, ed è poco quello che le ho detto, guardi, mi creda che è poco. Lo dica ai suoi pari. Mi creda che veramente è poco, mi creda. Per quello che lei ha detto, mi creda. Se lei adesso ci pensa, chiude il telefono, riascolta la radio, mi creda che quel che le ho detto. Ma scusi, poi concretamente è una cosa detta così oppure concretamente che significa? Angelo, che significa? Che bisognerebbe cancellare Napoli? Cancellare? Sì, al più presto possibile. Ma come? In che modo? Tabula rasa, il Vesuvio? In che modo? Non ho capito, ma è una follia, Angelo, una follia. Vabbè, siamo in Italia, posso dire la mia? Sì, ma c'è qualche legge che me lo proibisce di dirlo? Beh, dipende, magari ci potrebbe anche essere. Io sono contrario a queste leggi qua. Io la penso così. Ma non è un pensiero questo qua, non è un pensiero, è una porcheria. È una roba detta così, i forni crematori e i termovalorizzatori per i napoletani. Lei sta copiando quel tizio là di qualche settimana fa che ha parlato così dei Rom, caro Angelo, ma nessuno ma la sono peggio dei Rom. Cioè i napoletani peggio dei Rom. Peggio dei Rom. Delirio, dai, delirio. Ma adesso lei sta parlando sul serio? Cioè, è veramente convinto di questa roba? No, io sono convinto di quello che dico, per l'amor del cielo. Ma non è io che è una razza. Io giro l'Italia, faccio il trasportatore. Sì. Dove passano i napoletani c'è la merda per terra. Vabbè, ma che vuol dire? Lei è napoletano autotrasportatore. Angelo Da Luca, guardi che lei potrebbe passare i guai per quello che sta dicendo. Speriamo no? li passi. No, che sto dicendo di male? No, ma come di male? Magari c'è qualche suo collega napoletano incazzato come una beva. Ma non si rende neanche conto. Un autotrasportatore come lei, che ne so, o no? Guardi, io rigiro l'Italia, quindi mi possono affrontare quando vogliono, io sono a loro disposizione. Ma che vuol dire a loro disposizione? Non è che loro, non è che c'è, non è che c'è il gruppo di napoletani, è scusi. È incredibile. Vabbè, Angelo, arrivederci. Non si vergogna. Il Signore vi benedica tutti, vi spiri sempre il bene. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, grazie per questa benedizione. Ce n'è bisogno, Parenzo, ce n'è bisogno. Signor Amor. Allora, cosa succede a Padova? Cosa succede a Padova? I carabinieri hanno arrestato tre ladri, autori di svariati furti in abitazioni. Tempo fa questi tre ladri albanesi, ma non è importante albanesi, in questo caso anzi è importante. Tempo fa questi tre ladri albanesi, ma potevano essere napoletani, però vi spiego adesso perché è importante che sono albanesi. Tempo fa avevano ottenuto solo una denuncia a piede libero, cioè scoperti, denuncia a piede libero. Intercettati al telefono in un momento successivo a una semplice denuncia a piede libero dopo essere stati scoperti come autori del furto di mezzo chilo d'oro, si dicevano: solo in Italia capita di cavarsela così. Cioè, questo è il punto fondamentale, no? Questo è il punto. Oh, il nostro amico Bonanno se ne è uscito con un'altra roba. Capito? Oltre alla CIA? Sì. Ha detto oltre che per... all'elogio della tortura. Ha detto che per Stasi ci vuole la sedia elettrica. Novità su Razzi. Cosa succede? Per forza ha parlato oggi, perché infatti ho visto i cartelli che a Tor Sapienza c'è il Circo Medrano. È vero, forse va, allora, va a Tor Sapienza. La notizia è questa: Razzi vuole andare a Sanremo, e questo l'abbiamo detto noi qualche giorno fa, con una canzone, Fammi cantare. Il conduttore di Sanremo, Carlo Conti, intercettato dalla signora Cagnola Marta, è possibilista. Ti devo coinvolgere in un giochino, perché io non so se tu conosci la Zanzara. I nostri ragazzacci della Zanzara hanno raccolto un'autocandidatura per il festival. Ormai per il cast era tardi, però si è proposto come ospite Antonio Razzi. Ma Crozza o l'originale? No, quello vero. E ci ha anche mandato la canzone. L'hai letto? Ma l'hai sentita la canzone? Ho sentito anche la canzone. Ah, l'hai sentita? Perché altrimenti ti avremmo fatto sentire un pezzettino della canzone. Ah, la riascolto. Allora, facciamone sentire un pezzetto. Quello che io faccio non ho mai pentito, sono stato eletto senatore, anche perché di fame si muore. Poi Crozza mi ha imitato e ora sono anche famoso. Insomma, cioè, quello che io faccio non ho mai pentito, io direi che già dal testo si capisce la pregnanza. No, guarda, questo sarebbe stato perfetto secondo me. Se avessi fatto il dopo festival sarebbe la sigla e l'avrei avuto al mio fianco per farlo. Nel festival non lo so se c'è lo spazio, se c'è il ruolo, magari con Crozza potrebbero fare un duetto per fare un momento divertente, però insomma ci pensiamo, per carità, non si scarta niente a priori. Se la linea editoriale che cercheremo io e gli autori di dare al racconto del festival ci permette di inserirlo, perché no? Però ecco, così di gesto ti dico che sarebbe perfetta per il dopo festival, che purtroppo non facciamo. Mannaggia, il dopo festival era bello, sarebbe stato bello. No, ci ho provato molto. Ma lo so che ci tenevi. Non ci permettono più le spese di un tempo. Amico, e fatti i cazzi tuoi. Allora, l'amica Marta Cagnola si è zanzarizzata per un minuto e rotti e insomma la questione è molto semplice, caro Parenzo, non sarà la questione, come dire, no, mondiale, di rilevanza mondiale, no, in una giornata in cui ci sono 16 anni a stasi e bisogna capire perché Cuba in cui c'è l'America che si ravvicinano, in realtà c'è l'apertura di Carlo Conti a una possibile partecipazione di Antonio Razzi al Festival di Sanremo, che crolla. Io devo dire che sono favorevolissimo a questa ipotesi, favorevolissimo. D'altra parte, oh, Gianluca Buonanno dice che Stasi meriterebbe la sedia elettrica, altro che 16 anni di carcere, la sedia elettrica, signor Buonanno. Ma che cosa può fare? Cioè, quando uno arriva a questo livello circense, no? E mi dispiace per i circensi, perché io invece stimo quella grande arte. Ma che cosa arriverà a fare quest'uomo? Cosa andrà a fare? Cosa potrà dire di più ormai? Di più? Ha rubato un quadro al Parlamento Europeo perché c'era il crocifisso sopra, perché c'era il crocifisso con una donna nuda. Non mi toccare Dice Buonanno. Stupidaggini, non mi toccare ogni volta Buonanno. Che ci prendono in giro tutti i paesi d'Europa, i deputati e lo zimbello d'Europa, praticamente. Chiede la sedia elettrica per uno che è stata per la sedia elettrica in un paese che per fortuna non ha più la pena di morte, neanche anche gli Stati Uniti la stanno abolendo via via negli stati dove ancora rimane. Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questo povero uomo qua ormai? Cosa? Sono stato eletto Alda. Il povero uomo chi sarebbe, ragazzi? Scusate, sarebbe, sono collegata adesso. Sarebbe Buonanno, l'europarlamentare della Lega, che ha proposto la sedia elettrica per Stasi, condannato a 16 anni. Vabbè, ma la Lega ha proposto tante cose di quel genere, capirai. Ma non sei diventata salviniana anche tu? C'è questa ondata salviniana, tu niente? No, l'ho visto nudo sul giornale, devo dire che non è di mio gusto. No, come peluso. Uomo? Come uomo, peluso, vabbè, ho capito, peluso, che ti piacciono i depilati, non ho capito. No, voglio dire, avete visto il politico sotto le lenzuola, posizione Marilyn Monroe? Ragazzi, siamo seri, per favore. Vabbè, dai, tu dici, ridere, i politici della prima repubblica erano una... perché dai, non ti voglio attribuire troppi anni, però i politici... No, me li puoi attribuire, io ho 64 anni, mica li nego. Oh, ma non hanno colpevolizzato di tante cose, non mi potete fare una colpa anche per 64 anni siamo al top, però, Parenzo, siamo veramente al top, signora, ragazzi. Alda Deusanio. Potrei anche innamorarmi, signora Deusanio, io. Guarda, devi innamorarti di me, perché io sarò sempre una magnifica, splendida, simpaticissima rompiscatole vecchia e non una finta brutta giovane. Brava, come ti adoro. Senti una cosa, io voglio capire una cosa, cara Alda, ma per cui tu non hai dei dubbi su questa vicenda Stasi, no? Chissà, poi vedremo i magistrati, le motivazioni, eccetera. Certo, 16 anni... Io ho semplicemente dei dubbi sul fatto che impiegano tanti anni a capire o a trovare un assassino. Forse oggi hanno scoperto che anche per quanto riguarda la ragazzina, la quattordicenne, lì come si chiama, non mi ricordo come si chiama, perché adesso qui sono tutta una cronaca di morti ammazzati, non so se avete visto. Il morto ammazzato è diventato un prodotto commerciale perché fa vendere i giornali, fa aumentare lo share dei programmi televisivi. Non è un male. No, è un male, sì. Cioè, no, adesso oramai adesso, tu, proprio tu. Proprio io non ho mai parlato dei morti ammazzati in questo senso, ragazzi. E vabbè, ok, ma quelli che si occupano di morti ammazzati fanno bene a... Non dico che sono contenti, no, però... tutti i programmi televisivi. Ogni tanto si fregano le mani quando c'è... Bruno Vespa, con i plastici, si parla dei morti ammazzati. Vabbè, mo critichi i plastici di Bruno Vespa, dai, no, non criticare i plastici. L'unico incidente di cui non ha parlato il mio amico Bruno è stato il mio, perché non ha fatto il plastico del motorino che mi ha messo sotto. No? Vabbè, quello mi sembrava che sarebbe un po' di serie B. Dai, ragazzi, su. Vabbè, ma tu sei incazzata per i Marò? Sei incazzata per i Marò? No, mica solo per i Marò. Allora, lancio naturalmente, credo che la soluzione per salvare i Marò e uscire fuori da questo imbuto in cui andarseli a prendere. No, c'è uno è già il qua. Papa, scusate, il Papa Perché il Papa ha messo d'accordo Castro con Obama. Vabbè, bisogna vedere. L'hanno detto i due presidenti, hanno ringraziato l'intervento del Papa. Bisogna. Ma non diciamo al Papa, il Papa ci salva i Marò, ma siamo tranquilli. Cioè, abbiamo trovato finalmente il vero unico politico. Cioè, tu dici che bisogna, ci vuole solo il Papa, cioè, bisogna aspettare il Papa. No, bisogna, allora, parliamo, cioè, siccome ha risolto, siccome ha risolto il disgelo tra, cioè, il disgelo, il, la, i rapporti tra Cuba e Stati Uniti. Gli Stati Uniti ha fatto, ha messo fine, cioè, chiamasse il governo di Delhi e risolvesse la cosa, dici tu. Ma sicuramente papà risolve tutto. Vabbè, ma l'Italia che può fare? Niente, sono tutti incapaci. L'Italia finora ha dimostrato di essere completamente incapace di trattare la vicenda dei Marò come quella di due collegiali messi in collegio. Ho capito, ma che dobbiamo fare? Un bel blitz militare. Perché non un bel blitz militare? Alla base... Mossad, il blitz, no, se dobbiamo fare il blitz dobbiamo chiedere al Mossad, perché sono i più seri. Ah, qualcuno scrive che sei... Gli americani hanno dimostrato subito che se li fanno ammazzare gli ostaggi, no. Qualcuno dice che sei una cougar top, una top cougar. Top cougar, non sa, la cougar è stupenda. Ha ragione, è, signora, è una signora per bene. La signora, ma la cougar sono persone che hanno una certa età, che però ancora sono molto piacenti e con cui uno, insomma, si accoppierebbe volentieri. Tanto per essere chiari, cioè... che ci stai a provare? Scusa, no, io toglierei la frase dubitativa, cioè toglierei il dubitativo. Diciamo, no, non ci sto provando. Guarda, no, per carità, no. Però a 64 anni, qualche cosa, cioè qualche perversione ce l'ho. Lasciamo perdere. Ma come sta il tuo pappagallo? Mio pappagallo sta molto bene, sta molto meglio dei Marò e di tutti gli altri. Guarda, perché vive in una casa veramente democratica e civile. Ma scusa un attimo, ma lo scambio con i Marò, faresti scambio con i Marò? Tu in India e i Marò in Italia, Alda Deusani, gli indiani secondo me ti piglierebbero al volo. Io ci vado subito, ci sono stata in India. La cosa che viene questa mi offro come scambio, dai, offriti come... No, io mi offro volentieri come scambio. Ma voi l'avete vista l'India? Ci siete mai stati? No, purtroppo. È una nazione di una crudeltà unica. Superano bambine di 6-7 anni tutti i giorni, no, ma questo non è un incidente, voglio dire, la realtà dell'India ce l'hanno venduta, cioè, come sono paese incivili, dici, della sono incivili, pace, della spiritualità, più che incivili, sono crudeli, crudeli. È l'unico paese che ha una religione che attesta la totale indegnità di un essere umano, perché appartiene a una casta povera, addirittura di essere toccato, non sono talmente indegni da non essere toccati, però possono stuprarli. Ma allora che dobbiamo fare noi? Uno ce lo dobbiamo tenere in Italia, l'altro, quello che è ancora dentro l'ambasciata, prenderlo lì e rimpatriarlo di nascosto. Prima di tutto quello che è dentro l'ambasciata, io prego qualche troupe televisiva di andare a vedere come vivono i marò. Vabbè, ma quello non vivono male, dai, male non vivono. Io le ho viste, andate a vedere. Vabbè, dai, non esageriamo. Andate a vedere, dai, com'è la loro, perché siccome li fanno passare per quelli che stanno in un albergo a 5 stelle, non stanno in un albergo a 5 stelle. Andate a vedere, li accusano di essere dei mercenari. Io non sono una militarista, sono semplicemente una che guarda i fatti, cerca di vederli. Ma cosa faresti concretamente? A parte offrirti come merce di scambio per gli indiani, questo potrebbe essere una proposta che taglierei qualunque tipo di rapporto commerciale, perché tutto. I Marò, secondo me, sono stati venduti all'India. L'India qualsiasi... ha usato i Marò, sì, è vero, perché gli italiani li ha usati per scopi come ricatto e per guerre politiche interne fatte alla famiglia Gandhi e fra di loro. Sono 3 anni le che grandi analisi di Alda Deusani. Ma quali grandi analisi? Non sono mica io che faccio le grandi analisi. Ma perché per 3 anni la stampa italiana è stata zitta? Perché Santoro, Vespa non sono andati in India a vedere che fine avevano fatto i due soldati italiani? Perché questa diplomazia del silenzio? Perché? A proposito di silenzio e di dolore, ma il tuo amico Caprarica? Hai visto che fine ha fatto? Caprarica è scappato dall'Albania dicendo che... è andato via una cosa pazzesca, pazzesca. Ah, sono stata domenica lì in questa televisione. In Albania, Sì, in Albania. Da Gonciarne. A proposito, il tuo vecchio amico, il tuo amico sindaco Marino, come se la passa? Ah, no, adesso è diventato un eroe. Hai visto? Sì, hai visto. Sì, è qualche cosa di assolutamente incredibile. C'è stato un periodo che non poteva uscire, eravamo tutti talmente contro di lui, abbiamo firmato dappertutto. Adesso invece, adesso per il PD, che prima lo attaccava, è diventato un eroe. Perché lo stesso Marino ha detto: ma se non lo sapeva il prefetto che c'erano i criminali, e invece secondo te? Invece? Come faceva a saperlo io, ha detto lui. E invece secondo te? Lo sapevano tutti eh? Perché se non lo sapevano veramente abbiamo veramente degli incapaci. No, lo sai la barzelletta dell'aereo che cade e tutti muoiono? C'è un aereo che cade in pieno deserto, non c'è una duna, non c'è un alberello, non c'è un alito di vento, non c'è una nuvoletta, tutto pulito, arrivano gli ingegneri, non trovano la scatola nera disintegrata, 400 passeggeri morti, l'equipaggio morto, l'unico sopravvissuto è una scimmia. Allora uno degli ingegneri dice all'altro: senti, quando torniamo indietro ci dobbiamo fare una conferenza stampa e spiegare questa tragedia aerea. Proviamo a chiedere alla scimmia, dicono che sono animali intelligenti, forse ci può spiegare la scimmia. Allora vanno alla scimmia e dicono: senti, ma mentre l'aereo volava, dov'era la hostess? E la scimmia, muovendo la mano, il palmo della mano, fa: e dov'era il pilota? E dov'era la seconda hostess? E dov'era il comandante? E tu dov'eri? Guidava. E questo dunque sarebbe? Marino. Sarebbe che, no, cioè voglio dire, se veramente nessuno sapeva, né le forze dell'ordine, né i prefetti, né i questori, né il PD, né Bettini, né tutti questi qui, allora loro. Abbiamo una scimmia, allora abbiamo una scimmia che guida l'aereo. Cioè il comune. Ciao, Alda. Geniale. Non solo il comune, ragazzi. Sì, vabbè, cioè il comune, Marino ce l'hanno messo i partiti, mica ce l'ha messo la scimmia. Scusa. Ti abbraccio. La scimmia non è Marino, sono gli altri che guidano. Ciao. Abbraccio. Ciao ragazzi. Ciao, cara, ciao. Chi è qua? Chi c'è? Dobbiamo chiudere. Perché dobbiamo chiudere stasera? Perché Alessandro, Saverio, Marco, David o David? C'è uno che si chiama David, vuole intervenire? Bel nome, bravo. David o David, a domani 18:30. Ciao. Ma ve ne dovete annare? Ma perché? Ma se ve dica annate, ve ne annate. Ma perché se ne dovete annare? E bisogna ve ne annate. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Ti prego. Radio 24. La passione si sente.